Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Dal Letterature Festival 2025, Nicoletta Verna con Macerie. Adesso della guerra non parla più nessuno, oppure ne parlano tutti. Sono due specie di ossessione, uguali e contrarie. Ci sono quelli che ficcano le bombe e le granate in ogni discorso, con qualunque pretesto, e raccontano senza tregua di quando erano al fronte o sui monti, e spiegano come sono sopravvissuti e perché. Essere vivi li fa sentire onnipotenti. Credono che sia un merito, non uno scherzo come un altro della sorte. È un'illusione che non capisco, ma la rispetto. Poi, invece, ci sono quelli che non la vogliono sentire nominare la guerra, nemmeno per sbaglio, nemmeno di sguincio. È un segreto recondito, la parola indicibile. Io sono tra questi. Della guerra non parlo mai, perché sulla nominarla mi torna su tutto la nausea, il terrore, l'idea della fine, il tempo immobile dell'attesa. Stanotte gridavi, dice mia madre mentre metto sul fuoco il caffè. Grido tutte le notti, ma lei ha il sonno pesante e non se ne accorge. Davvero? Avrò fatto un brutto sogno. E cosa sognavi? Che Giulio non tornava più. Boh, e chi si ricorda? Giulio è partito per l'Albania il 9 gennaio del 41. L'ultima lettera è arrivata un anno dopo. Poi più niente. Tutti mi dicono che è morto, il suo corpo sarà chissà dove, in fondo al mare, e che non devo più aspettarlo, perché a quest'ora sarebbe già tornato, no? Mi dicono di non illudermi, che la speranza del bene spesso è più cattiva della certezza del male. Hanno ragione. Io invidio quelle che hanno visto i cadaveri dei loro figli, perché almeno non li aspettano più e perché hanno un luogo dove piangerli. Dopo la colazione mi preparo per andare in fabbrica. Quando sono già sulla porta, mia madre dice: «Ieri è arrivata questa», e mi mette in mano una lettera. È di una mia cugina che sta a Livorno. È strano che mi scriva, non lo fa quasi mai. Ora però è tardi e non ho tempo di leggerla. Così infilo la busta nella borsa ed esco. Pedalo lungo la distesa di rovine che prima era la mia città. Mi faccio strada tra gli operai che sgombrano le macerie, caricano sulle carriole gli avanzi della vita che c'era prima. Questo pezzo di cemento era un balcone, quel legno carbonizzato un albero. I morti li hanno già tirati fuori tutti, ma spesso trovano ancora resti, frammenti umani. Ripenso in un lampo a Giulio, a chi l'avrà trovato giù in Albania. Poi mi dico che no, non è così. Giulio è vivo e tornerà. Nella pausa per il pranzo mi ricordo della lettera di mia cugina. La scorro, è breve e diretta. Per un istante mi si appanna la vista. C'è scritto che forse ha visto Giulio. Respiro forte, rileggo. Forse ha visto Giulio, dice, al porto di Livorno. Se non era lui, era uno quasi identico. Scendeva da una nave insieme ad altri. Li hanno caricati su una camionetta. Mia cugina ha provato ad avvicinarsi, ma una guardia l'ha fermata. Poi la camionetta è partita e lei ha chiesto chi erano quelle persone, dove le portavano. La guardia ha risposto che erano reduci di guerra e che li stavano conducendo al manicomio di Montelupo Fiorentino, perché al fronte erano impazziti. Piego la lettera. Mi esplode la testa, come quando confondo la realtà con l'abbaglio e le cose non sono vere né false, come nei sogni. Non è impossibile che sia Giulio, mi dico. Di soldati che hanno perso il senno è pieno anche qui da noi, ne conosco tanti. Sono muti, non ricordano niente. Trascorrono il tempo a fissare il nulla o a piangere di terrore. Non vogliono più vivere perché hanno vissuto abbastanza. Però non vogliono nemmeno morire perché la morte l'hanno vista da vicino e gli fa paura. I parenti dicono che sarebbe stato meglio se non fossero tornati, ma io so che non è vero. Che se Giulio fosse davvero quel pazzo che ha visto mia cugina, me lo porterei a casa subito e lo farei guarire e aspetterei che ridiventasse sano. La guerra è finita, finirà anche la follia, questo mi dico. La mattina dopo decido di andare a Montelupo. Sei matta? Dice mia madre. Come fai a partire così solo per un'idea, un'impressione? Parte, basta, vado a vedere. Non è lui, sennò ci avrebbero già scritto. E forse ha perso la memoria. È un'altra speranza che ti farà male. Può darsi. Cos'altro mi resta? Pedalo fino alla stazione senza domandarmi altro. Salgo decisa sul treno per Firenze. Anche le ferrovie sono state bombardate, ma le stanno costruendo. Tutto tornerà come prima, mi dico. Non può essere altrimenti. Guardo l'immensa campagna fuori dal finestrino. Mi immagino di incontrare Giulio. Trovarlo al manicomio, intravedere fra le pieghe della follia il suo sguardo pulito, il suo sorriso buono. Mi immagino di tornare alla spensieratezza dell'inizio, quando la guerra non c'era e io avevo una famiglia e mi pareva di avere tutto. Sento un dolore così feroce che mi dà il voltastomaco. So che la speranza fa tanto male, solo perché è un riflesso del ricordo. Arrivo a Montelupo, che è già pomeriggio. Solo adesso realizzo che è una follia essere partita così alla cieca. Prima avrei dovuto chiedere informazioni, scrivere al manicomio. Non l'ho fatto, perché non volevo sapere niente. E perché? Non lo so esattamente il perché. Anche qui ci sono solo macerie, ma almeno non so com'era prima e quindi mi pare di sopportarlo meglio. Fermo un uomo che porta un carretto, gli chiedo del manicomio. È alla villa dell'Ambrogiana, dice, venga con me e l'accompagno. Dopo pochi passi vedo stagliarsi oltre il fiume un immenso edificio a quattro torri. Non so se è più magnifico o spaventoso. Entrambe le cose, credo. Cosa ci va a fare? Domanda l'uomo. Devo vedere qualcuno. Ah, ma quelli che stanno lì non li fanno mica vedere. Quelli che stanno lì è come se fossero morti. Mi lascia in cima a un lungo viale, cammino fra gli alberi, meli, castagni. Adesso si sta facendo buio e mi attraversa un malessere ignoto, una specie di presagio. Arrivo al portone d'ingresso, c'è una guardia. Ha bisogno di qualcosa? Cerco una persona, scuote la testa. Per fare visita agli internati serve un permesso speciale. Deve scrivere, non ho più tempo, sono anni che aspetto. La prego, ho fatto un viaggio lunghissimo. Mi dispiace. Per favore, insisto. Mio figlio è un reduce di guerra. Voglio portarlo a casa. Qualcosa sembra cambiare nella sua espressione. Dice, aspetti un attimo, e sparisce dietro al cancello. Dentro il manicomio non è bello come fuori. È desolato, tetro. Il medico che è venuto a prendermi all'ingresso, però, è gentile. Questo sarebbe un manicomio criminale, spiega, scortandomi lungo un androne. Però adesso criminali ne abbiamo pochissimi, abbiamo solo dei disgraziati. I reduci? Sì. Ne arrivano di continuo, non sappiamo più dove metterli. Sui muri ci sono delle scritte. Una dice, io non sono nessuno, e poi segni di calci, di pugni. Vede, prosegue, loro non dovrebbero stare qui, ma con le loro famiglie. Però i parenti non li vogliono. È comprensibile, in un momento come questo, come fanno ad accollarsi un peso del genere? E non guariscono più? Alza le spalle. Se fossero fuori, a condurre una vita normale, si riprenderebbero meglio. Ma qui, come si fa? Continuiamo a camminare in silenzio. Mi fa sorridere quando sento dire che la guerra è finita, dico alla fine, quasi fra me. La guerra è appena cominciata. Già, una guerra non finisce mai quando finisce. Mi lancia un breve sguardo. È per questo, sa, che ho accolto la sua richiesta. Se davvero trova suo figlio e decide di portarlo a casa sotto la sua responsabilità, sì, certo. Proseguiamo fino alla porticina di legno. Mi dice che quello è il reparto dei reduci senza generalità. A me manca il fiato, l'attesa di questi anni, gli incubi, gli spettri, eccoli, tutti concentrati qui, in questo istante, adesso. È un peso insostenibile, anche se ha il sapore beffardo della liberazione. La porta si apre, c'è un lungo corridoio su cui si affacciano le celle. I pazzi stanno sui letti, solo qualcuno mi scruta dalle sbarre. Li osservo uno a uno, tremando. Qualcuno geme, qualcun altro batte la testa al muro e grida. Non si impressioni, dice il medico, sembrano aggressivi, ma non fanno niente di male. Li passo in rassegna. E Giulio, penso. Giulio, fatti trovare. Pure se sei il più pazzo di tutti, io ti prendo e ti porto a casa. Cosa vuoi che mi importi? Sono pazza anch'io ormai. Giulio però non c'è. Chissà cosa ha visto mia cugina quel giorno. In un lampo la stanchezza mi assale. Vorrei essere lontana. Vorrei essere morta. Il medico mi fissa con pena mentre il corridoio è finito. Resta solo una cella, l'ultima. Mi avvicino. Non so nemmeno se guardare dentro, se sperare oppure rassegnarmi e basta. Alla fine alzo gli occhi. Accoccolato sulla branda c'è un uomo di spalle, sottile come un'ombra. Treme e singhiozza in silenzio. Ha i capelli castani, è alto, ha le spalle piccole. Giulio, mormoro incredula. E lui si gira. È un ragazzo giovanissimo, dagli enormi occhi chiari, vuoti e atterriti. A Giulio non somiglia nemmeno. La delusione, forse l'odio, mi esplodono nel petto. Sento tutto il peso dell'assurda fatica che ho fatto fin qui, della mia solitudine, della stanchezza. Scuoto il capo. Possiamo andare? Dico al medico. Mi dispiace. Lancio un'ultima occhiata al soldato. Sta seduto sul letto, ha smesso di piangere. Si guarda intorno smarrito, è evidente che non sa dove si trova. Non sa più niente. Mi incammino nel corridoio e ho negli occhi l'immagine del ragazzo impazzito in guerra. La sua vita adesso è questa. I desideri, l'amore, i sogni, qualunque idea di futuro. Non c'è più niente. Ritornare per lui è stato così. Mi fermo. Il medico chiede, c'è qualcosa che non va? Giro la testa e cerco con lo sguardo lo sconosciuto. Sono dentro a un vulcano, a un vortice. Vorrei che aprissero le celle, facessero entrare anche me. Vorrei restare qui per sempre, senza più speranza, né illusione, né pietà. Si sente bene? Ripete il medico. È un attimo, un barlume. L'attesa, io non la posso sopportare più. Torno indietro spedita, quasi correndo. Il giovane mi fissa a sgomento, pare un mostro. È mio figlio, dico. Ha i capelli più lunghi, la barba, è molto cambiato. Ma adesso che lo guardo meglio, è lui. Davvero? Chiede il medico meravigliato. Sì, ne sono sicura, è lui. Saliamo agli uffici, mi fanno firmare delle carte. Io mi sento ebbra, come in trance, come quando sganciavano le bombe e precipitavano in un altro mondo. Non è cambiato niente da allora. Ma almeno non devo più aspettare nessuno. Il medico apre la porta della cella. Il pazzo mi viene incontro titubante, ma docile. Gli offro la mano, la stringe come un bambino. Usciamo fuori e adesso è buio pesto. Camminiamo vicini sul viale alberato, nella notte, senza meta. Lo osservo. Per un istante mi pare che sorrida, ma forse è solo un'impressione. Sorrido anch'io, tra le macerie. Dal Letterature Festival 2025, Nicoletta Verna con Macerie. Dal Letterature Festival 2025, Viviane Lamarck con E intanto la vita. Leggerò quattro diversi ritorni. Il primo, che scrissi anni fa, è il ritorno, un desiderio di ritorno di Pasolini. Che cielo azzurro, guarda, si è schierato per il tuo anniversario di assassinato. Proprio un giorno da partita di pallone, vedi? O da lì non si vede proprio niente, niente? Non senti che vento forte si è levato? con un vento così, il pallone ti sarebbe forse sfuggito, svolato, come tu quel giorno a noi. È un novembre con i colori di aprile. Siamo qui soli con te, Pasolini, con quel tuo morire. Il secondo ritorno è intitolato Ritorno di Dario Bellezza e altri, e molti altri poeti e anche non poeti, e soprattutto è l'emozione dei miei ritorni, io che vivo a Milano, dei ritorni a Roma. Mi emoziona tutto quello che vedo. E questa poesia è dedicata quindi anche a Roma. E l'avevo scritta in occasione, l'avevo scritta a Ostia Antica, in occasione del premio Ostia Antica, guardandomi attorno. Cari poeti romani, sembra l'anno scorso, ma allora c'era, mi pare, un po' di vento mentre leggevamo poesie sotto il firmamento. E qui sul palco c'era un poeta che era un vivente. Ora è diventato un poeta morto, assente. Sul palco non c'è. Non parla, non sente. Gli avevo detto, ti trovo bene Dario, come stai? Un po' dimagrito avevo pensato, beato. Della malattia non sapevo niente. Ti trovo bene Dario, come stai? Bene, bene. Scema, non avevo capito niente. Eppure l'ultimo suo verso sul palco era stato prima di riposarci per sempre. Cari poeti romani, tornando poi a Termini in metrò, ho letto i nomi delle vostre fermate. Che emozione! Allora le ho copiate. La vicina di posto mi guardava come per dire cosa fa. Ma non romani, sentite un po' che nomi. Magliana, Garbatella, Colosseo, Castro Pretorio, Re Bibbia, Pietralata. Mi sono così tanto emozionata che sentivo una specie di magone esagerata per un nome. Sì, per un nome e per il tempo e per la morte. Per il tempo che per mano ti conduce alla morte. Cari poeti romani, invece a Ostia Antica era il tempo dei versi, della vita. C'erano Giuliani, Pagliarani, la gente batteva le mani, guardavo gli scavi e quei pini giganti, strani. Dicevo a tutti, che pini strani, vero? Voi dicevate, sì, sì, strani, ma distrattamente. Come quando mi dite, ti ricordi quel libro? Io dico, sì, sì, ma non è vero. Leggo, ma dimentico le cose. Mi resta l'emozione, ma dimentico il nome. Se lo ricorda il sangue, ma la memoria no. Però i vostri nomi del metrò me li ricordo ancora. Magliana, Castro Pretorio, Garbatella, Colosseo, Re Bibbia Pretralata. E quei pini, che strani. Damiani, in giardino, ha una palma che è antica. Mi pare che le sono diventata un poco amica. Cari poeti romani, l'anno scorso mi pare che c'era un po' di vento. Carella, che spavento, aveva perso la busta dei soldi. Per fortuna l'ha ritrovata in fretta. Zeichen, in casa, aveva messo una molletta per reggere un telo. Così almeno gli pioveva di meno. E mi ricordo di Castel Porziano, quando il palco è caduto piano piano, e di Piazza di Siena, e ricordo Valentino vestito di bianco. Cordelli era lì sul palco, l'indomani i capelli gli sono diventati tutti bianchi. Cari poeti romani, a Ostia Antica era il tempo dei versi, della vita. La gente batteva le mani eravamo tutti poeti viventi. Guardate, quel pino mi pare che un poco si è mosso, eppure non c'è un filo di vento. Che sia Dario, caro bellezza, ti leggiamo poesie sotto il firmamento. Il terzo ritorno è il ritorno degli amanti, dal mio libro L'amore da vecchia. Confondere i bei nomi degli amanti, pronunciarli al momento giusto con il nome sbagliato. Chiedo perdono all'olmo quando lo chiamo faggio e al frassino quando lo chiamo acacia. Quanto si offese il carpino quando non lo riconobbi, a voltarsi di là umiliato l'aiutò il vento. Mi perdoni il larice che l'ho chiamato abete e l'abete che l'ho chiamato pino. Alle conifere tutte chiedo scusa e perdono chiedo ai fidanzati. Tutti dimenticati? No, i loro nomi ho ancora dentro bene incisi, ma come per nebbia confondo un poco rami e mani, colore delle foglie e dei capelli. Oh, presto saremo boschi tutti quanti insieme, avremo cuori d'erba, di radici, Orfei ed Euridici indietro volti, non ti vedremo mai più, luce di sole, saremo presto boschi tutti quanti insieme, da una vita passeremo a un'altra, dove, come, privi dell'azzurro della neve, privi dell'amore nelle vene. L'ultimo è un ritorno senza ritorno. E me l'aveva chiesto la lettura del Corriere, non solo a me, anche ad altri poeti, di scrivere qualcosa sulle tragedie del Mediterraneo, dei barconi sul Mediterraneo, 100 anni fa, tanto è sempre uguale, e avevo scritto questo. Ritorni senza ritorno. Mio fratello, lo sapevo che dormiva sul fondo del mare, ma dissi a mia madre, partendo, tranquilla, vedrai, io no. Invece sono anch'io ora sul fondo con loro. D'acqua al mio viso, la bocca, d'acqua alle lettere del mio nome, cognome, così muto l'alfabeto dei pesci. Se potete, pescate nel mare le nostre A, le nostre B, restituite i nostri nomi a chi ce li diede. Dal Letterature Festival 2025, Viviane Lamarck con E intanto la vita. Dal Letterature Festival 2025, Nadia Terranova con Considerate Penelope. Penelope, il mio nome, significa anatroccolo. Capite che è pure divertente per voi in platea guardare lo spettacolo, poter collegare i puntini. Mio marito va a una guerra scatenata per il possesso di Elena, la più bella, e per andarsene lascia a casa me, l'anatroccolo. Me e il figlio, Telemaco, soli a difendere il suo regno. Sì, so cosa siete pronti a obiettare. Nessuno scrittore, nessun poeta mi ha mai definito brutta, anzi. Mia madre era una naiade, una ninfa dell'acqua, e le ninfe sono bellissime. Mio padre, Icario, di lei ha fatto quello che ha voluto, se l'è mangiato quel corpicino fresco e giovane. Certo non si aspettava che poi nascessi io, il soggetto imprevisto della storia. I potenti non pensano alle conseguenze e se ci pensano se ne infischiano, avranno sempre uno scudo sulle spalle. Dunque, quando sono nata, mio padre mi ha vista nuda e ricoperta di sangue, avvolta della polvere magica del parto, una bambina, che visione fastidiosa, subito mi ha buttata nel fiume. Si è sbarazzato di me, eppure è rimasto sempre autorevole, titanico. Un padre che uccide i figli non fa rumore, soprattutto se si disfa di una femmina. Sentite come nasce la disparità. Morte per annegamento, una morte pulita, giacché l'acqua lava tutto, le tracce e gli affronti. Quanto a mia madre, quando avevo 7 anni, una balia stizzita mi disse: se avesse tenuto a te, si sarebbe ricordata che sapeva nuotare. Veniamo addestrate presto a odiarci fra di noi. Sì, mi ricordo quando sono morta, ero appena nata. Come tutte le femmine avrei dovuto lottare per vivere. Non pensate che ce lo assegnino nella pancia quel diritto, non a noi. Prima nasci, poi vediamo. Se sei femmina, ti aspettiamo al varco. Mi ricordo il silenzio dell'acqua, il braccio colpito da una conchiglia, le alghe che si avvitavano al collo mentre lottavo in un liquido estraneo. Com'era diverso tutto dalla quiete del ventre da cui ero stata strappata. Non morii per davvero, perché un'anatra mi prese per il collo. Con un gran svolazzare di ali mi portò a riva, aveva gli occhi uguali ai miei e la riconobbi come mia madre. Nello stormo di uccelli che mi corse incontro, c'era chi mi soffiava per restituirmi il respiro, chi con la zampa mi percuoteva la schiena fino a farmi uscire il primo vagito. Ora sì che stavo nascendo, Penelope, l'anatroccolo femmina. In un mondo di dei ed eroi avevo cominciato a meritarmi la vita. E voi, tutti increduli nel sentirmi respirare, avete cominciato a sospettare che fossi la più forte. Se ero scampata alla morte, forse avrei ottenuto il vostro bene. Quale fosse, lo avete deciso voi. Considerate il mio nome, Penelope. Non guardate chi vi sta parlando, ignorate il mio aspetto. Vi è servito raccontare che ero bella, era utile a costruire il mio mito. Considerate voi stessi le storie che tramandate da 3000 anni, le più sontuose, le più antiche. Considerate i poemi, la tragedia. Ripetete con me questo numero, 3000. Non proprio un fatto da niente. 3000 volte 365, i giorni in cui avete pronunciato il mio nome, Penelope, per sigillare il vostro ideale, la moglie perfetta, casta nell'attesa, astuta suo malgrado, ingannatrice, sì, ma per difendere l'onore del marito. Penelope devota, profonda, delicata, mai sconveniente, mai temibile. Penelope, il miraggio di pace di ogni avventuriero. Tormentata, sì, ma fedele, innocua. Per un attimo considerate Ulisse. Sarebbe partito senza che fossi rimasta ad aspettarlo, se alla sua storia non avessi aggiunto la mia? Certo, chi parte non ha bisogno di qualcuno che lo aspetti. Invece io sarei esistita senza la mia definizione, colei che aspetta un altro. Considerate Penelope, fate la zitella, serragliata in casa ad attendere un ritorno, senza l'uomo partito in guerra. Avreste detto che era pazza, aveva perso la ragione, i fantasmi l'avevano resa una povera demente. Considerate la vostra Penelope, la pazienza e la fedeltà, le virtù decantate, ecco cosa vedevate in me. Mio marito, l'avventuriero, aveva anche il grande merito di aver saputo scegliere la donna giusta. Lo amate anche per questo. E io sono lo specchio che restituisce aumentate, moltiplicate per 3000 volte le sue virtù. Ma non è vero, Penelope, c'è virtù nella tua restanza. Ulisse è tornato, mi ha messo incinta di nuovo ed è ripartito. Come mai dopo 20 anni è stato con me solo una notte prima che la noia lo risospingesse via? Sono io la sua noia? Non abbiamo detto questo. Preferite infatti che sia io ad assumermi l'onere di farlo, allora continuate a considerare la vostra Penelope, il vostro secondo sesso, la donna che vi siete scritti a uso e consumo del vostro mondo, occultando con metodo e precisione ogni dettaglio che potesse smentirvi. Considerate, mi raccomando, come avete fatto per 3000 anni, con i numeri voglio esagerare, la versione di un'unica storia. Consideratemi la protagonista di un palcoscenico sgombro, la regina di una casa vuota. Quando ogni forma di verità è perduta, può risultare strategico vivere dietro alle versioni ufficiali, mandare avanti un fantasma di sé. Così della vostra storia ho approfittato anch'io. Ho lasciato che mio marito si occupasse della conquista del mondo e ho recitato la parte che mi avevate dato, la sovrana supplente. Ho creduto, e in quegli anni era vero, che non protestare fosse il solo modo per salvarmi la vita. Quella di cui parlavate non ero io. Vi siete presi la mia immagine, non la mia anima. Sapete, su come arrangiarmi a non morire avevo maturato dalla nascita una certa esperienza. Se avessi amato un altro, se avessi danzato nuda nel giardino, se avessi organizzato la rivolta con le ancelle, uno di voi, buono o cattivo, nel nome di qualche legge, mi avrebbe fatta fuori, in un attimo. Sono rimasta dentro il recinto, con dentro di me una libertà a voi sconosciuta, e vi ho ascoltato parlare di me come se parlasse di un'altra, una donna che non riconoscevo. A volte sorridevo. Ho sentito come vi è piaciuto farmi abitare il vuoto meglio di tutte. Avete considerato il mio nome la clava con cui colpire le altre. Questo mi è piaciuto meno. Ho odiato la versione che di me è servita per far scorrere il sangue delle donne, ucciderne i desideri, far sì che nascessero già private dei loro sogni, mozzati alla radice. Che te ne fai di Ulisse se per modello puoi avere Penelope? Così dicevate alle bambine. Ho visto come vi applaudivate a vicenda, le pacche sulle spalle che vi davate l'un l'altro, soddisfatti per avermi messa sotto scacco. Vi ho spiato mentre ammiravate la perfezione della gabbia virtuosa in cui mi avevate rinchiusa. Ho sperato che avreste mostrato l'umanità che non avevate. Ho sperato, come può sperare una sopravvissuta a cui è concesso di sperare l'impossibile. Colei che una volta è stata salvata da un'anatra non ha nulla da perdere. Intanto soffrivo mentre levigavate la clava che avete usato per raggiungere il vostro scopo, trasformandomi nel tronco che ostruisce la strada, nella valigia che noi donne non prepareremo, nel biglietto scaduto, nel viaggio immaginato. Mi avete fatto diventare il cavallo preso in corsa dagli uomini mentre le donne restavano a piedi. Adesso che avete considerato Penelope, ora che avete tutto e siete al sicuro e vi sembra di poterci concedere qualcosa, ora che va di moda raccontarci, ora vi applaudite tra voi. Tutto sommato considerate Penelope. Non sentite il grottesco quando prendete parola? Stiamo restituendo dignità a Penelope. Ma per favore, ho già la mia dignità, grazie. Esageri, Penelope, sei di parte, i tuoi occhi sono confusi, non distingui la verità dai tuoi spettri. È lecito reagire agli attacchi, ma non ai complimenti. Per attaccarmi avete foderato la clava di velluto. Superbo è sottrarsi alle lodi, maledetta la voce che protesta. Lo tengo a mente da 3.000 anni, 365 giorni per 3.000 volte. Sì, ora basta, Penelope. Considera che tutte vogliono essere te, anche gli uomini. Desideriamo l'amore, maschi e femmine. Tu sei la più adatta a essere amata. Che ingratitudine e che offesa non gioire del proprio talento. Mio marito è tornato. Finalmente non sei più sola, ha esultato Atena. Non sei contenta, Penelope? Ulisse è tornato a proteggerti, lo dice anche la dea. Per proteggermi, mio marito, come primo gesto, ha ucciso le altre 12 ancelle impiccate dentro la casa che lui aveva abbandonato. Poi è passato agli uomini. Fra loro forse qualcuno mi aveva tentata, ma importa? La versione che avrete voi sarà sempre che ho resistito alle tentazioni. Io sono casta, sono il modello da seguire. Finisco la mia vita camminando nel sangue sparso nel mio nome, il sangue che avete sparso senza considerare me. Non hai capito nulla, nemmeno di te stessa. Da tanto tempo le donne scrivono di te, amano te, danno voce a te. Da tanto tempo sei una luce per tutte. Non sei passiva, Penelope. Non sei quello che credi. Vedi che non sei buona a capire? Io ho capito, invece. Ho capito tutto, da quel primo vagito fuori dall'acqua. Ho capito mio marito e i miei figli. Ho capito i nemici e gli amici. Le sorelle e i fratelli, i servitori, le ancelle, gli animali, le mucche, il cane. Li ho capiti e li ho raccontati nelle storie che morirete senza conoscere. Ho capito mio padre, che conosceva il mondo e ha provato a risparmiarmelo. Mia madre,

così ci addormentiamo, eh? Ci riposiamo e magari sogniamo, Cateri. Conta le pecorelle, dai. Sembra povero. Conta, Caterina. Non si mastete d'indasta lota, a ma sembra abbatete. Questa lota è un brutto cavuto, per non poveretto la vita è fenuta. Dammi la mano, Caterina, dammi la mano. Chi sta buono, salta giù da quella nuvola. Non creda la male. Salta, salta. Chi sta sazio, non creda la fame. Caterina, Caterina. Chi sta buono, hai visto? Non creda la male. Non lo so. Chi sta sazio, non creda la fame. Sento che odore. E guarda che colore. Scancellato. Non ci sono mai venuto, amore. Dalla società. Per non poveretto, è bellissimo. Pietà, gesta. Senti questa musica. Stanno dentro. Non lo so. Tanto antico. Magnate la scorcia, sparagli la mollica. E adesso balla muro. La mollica. E c'è la mano stasera. Che adesso. E allora tu cande. E non ritornerà mai più. La mollica della mamma paura, e al lume dei candele che poteva due fiori la. E ti voglio sposare, amore mio. Wagnu, io mi sposo a Caterina. Madonna, veramente c'è bella notizia. Rocco, vino, fuce, stai una novità. C'è Caterina, stanno a sposare. Un momento, non andiamo di fretta. Sembra una cosa all'improvviso, dobbiamo fare. Io, Caterina, scusa se interrompo. Io, che cosa devo fare? E che puoi fare? Non incominciare, perché io devo fare il compare. Allora puzza di chi ti è morto, non sai nemmeno firmare. Wagnu, sempre a litigare, non vi dovete preoccupare. Vogliamo due testimoni, chiaro? Come i signori noi ci sposiamo, è vero Caterina? Perché sta vita è breve, sì, ma noi ce la godiamo, amore mio. Non entrate, se siete contrari, non facete sempre come un inizio. Se siete contrari, aspettate, non facete così. Ciao Federico. Oh Gabriele, ciao. Ci vediamo dopo. Ciao, vado, mi sposo e torno. Ciao. Sì, amore, non ti preoccupare, non riesci a sposare questo. Sei tranquillo, non preoccupare. Fratelli, benvenuti alla celebrazione. Vuoi tu, Caterina, prendere sotto la tua protezione? Che stolto. E promettere di amare, rispettare ed onorare fino al giorno in cui ti sarà vicina la qui presente sposa, la signorina Grimaldi, Caterina. Vuole, Donato, io sto qua fuori, mi senti? Vuole, anche di più, no? Anche di più. Oh, ti chiami Ciccio, tu? Comunque vuole, Donato, no? Vuole. Tu lo puoi dire, no? Tu lo puoi dire. Wagnu, non vi fate sentire. Fratelli, benvenuti al matrimonio. Vuoi tu, Grimaldi Caterina, prendere come compagno e promettere di amare, rispettare ed onorare fino al giorno in cui ti sarà vicino il cui presente sposo, il signor Ciccio Savino? Vuole anche di più, Durantò, no? Ti chiamo Caterina, tu, no? Ti chiamo Caterina, tu, no? Wagnu, non fate i bambini, oh! Fratelli, silenzio.

ristrutturato, restituito alla cittadinanza. Che caratteristiche ha? Quest'anno il festival si arricchisce di un comparto scientifico di rilievo con ISPRA, SNOB, OBLA, che sono appunto riferimento nella biologia e nella scienza, e sono il comitato che organizzerà sia giornate formative, ma che dà poi anche un retroscena appunto di contenuti e di informazioni che sono necessarie per comunicare che le risorse del pianeta stanno finendo e come preservarle. Quindi ci saranno sia artisti che utilizzano i mezzi artistici multidisciplinari, quindi dalle performance alle sculture, ai quadri, agli assemblaggi, e poi ci sarà un comparto di biologi artisti che trasformano il rifiuto in risorsa attraverso dei procedimenti anch'essi creativi, ma con un taglio appunto scientifico differente. Quanti sono gli artisti e le artiste coinvolti e coinvolte? Rescarti è un contenitore multidisciplinare, perciò quest'anno abbiamo selezionato 30 artisti, 5 collettivi, quindi ospitiamo i collettivi della moda consapevole, i Carbon Carpet, Nziria Project, Città dell'Arte Fondazione Pissoletto. Tutti trovano spazio e voce per un messaggio corale che poi si riflette anche nell'allestimento di quest'anno, che prevede proprio la concentrazione delle opere tutte in un'ala della Vaccheria, come se fosse un'unica voce, come se fosse un messaggio multidisciplinare corale per prendersi cura dell'ambiente. Quindi c'è una bellezza ma anche una responsabilità nell'artista del riciclo artistico, perché apre una dimensione di riflessione e lavora al servizio di una causa, la causa ambientale. Come sarà l'allestimento? Prevede 24 teche con opere autoportanti, a parete. Quest'anno l'allestimento vuole comunicare qualcosa di importante, cioè un unico coro, un'unica voce. Le opere d'arte a parete saranno tutte concentrate in un unico spazio, lasciando vuoto il resto, proprio perché c'è una responsabilità, oltre che la bellezza, nel riciclo artistico. Gli artisti lavorano al servizio di una causa, che è la causa ambientale, e vogliamo mandare tutti insieme, attraverso la multidisciplinarità, la multicromia e il multimateriali, un messaggio importante in favore dell'ambiente. Come si sono espressi gli artisti con i vari materiali di riciclo? Il riciclo in tutte le sue declinazioni, perciò c'è chi eleva la natura ad opera d'arte, chi decontestualizza un oggetto, quindi ne cambia la funzione, chi trasforma l'oggetto, perciò lo assembla e disassembla, e grazie al comparto scientifico quest'anno abbiamo anche alcune opere che sono la vera e propria trasformazione del materiale attraverso dei processi artigianali ma replicabili, in maniera da dare soluzioni di design che possano contribuire alla causa climatica, quindi a inquinare di meno. Gli artisti probabilmente non risolveranno il problema dell'inquinamento, ma aprono uno spazio di riflessione, quello attraverso i simboli, e in questo modo contribuiscono a comunicare questa nuova intelligenza ecologica che è arrivato il momento di metterla in pratica. I riferimenti web per tutte le informazioni? C'è un ricco programma, sempre a ingresso gratuito, sono 19 giorni, pagina web riscarti.com, oppure i profili social riscartifest e anche di tutti i partner che abbiamo coinvolto. 12ª edizione di Riscarti, Festival Internazionale di Riciclo Artistico a Roma La Vaccheria dal 19 settembre al 5 ottobre 2025. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e direttrice artistica Marlene Scalise. Alla prossima! Grazie a voi, vi aspetto a Riscarti. L'editore Mattia Tombolini sul suo libro Sacro Rancore, una presentazione a Roma, a Largo Ravizza, domenica 28 settembre 2025 alle ore 18. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Cosa hai raccontato? Questo libro è un racconto personale, la scusa dal punto di vista personale mi serve un po' a costruire una narrazione che attraversa alcuni fatti, diciamo anche collettivi, alcuni spazi anche collettivi, e quindi uso lo strumento del romanzo per fondamentalmente affrontare un po' di tematiche che sono anche di carattere più politico, appunto più collettivo. Quindi fondamentalmente parto dalla mia storia personale in infanzia, ma in maniera proprio accennata, perché a me poi non piace raccontare troppo i fatti miei, ma non per altro, solo perché penso non siano troppo interessanti. Però con la scusa di questo racconto un po' come mi sono avvicinato al mondo dei compagni, quindi poi anche dei centri sociali, dei collettivi, dei movimenti che ho avuto la fortuna di incontrare, come quello dell'Onda all'università, o movimenti anche diversi da quelli, diciamo, più di massa, più piccolini, ma comunque significativi. Quindi fondamentalmente racconto tutti questi anni, e all'interno di questi un po' di elementi critici ne escono fuori, e fondamentalmente il libro si interroga su questi, sul senso della militanza, sullo stile della militanza, sulla crisi della militanza. C'è un arco temporale definito? Il periodo in cui è ambientato tutto il libro, ovviamente essendo io nato nel 90, è dal 90 in poi, per quanto riguarda quindi anche quei movimenti che mi è capitato di incrociare da quando avevo 14 anni in su, quindi da quando in qualche modo mi sono cominciato a interessare, cominciato a fare il primo collettivo, c'era la riforma Fioroni, c'erano le riforme quelle sulla scuola, eccetera, eccetera, quindi tutto quello che da lì in poi è venuto avanti. Sicuramente io, per una questione biografica, mi sono perso un sacco di roba, e di questo ne parlo. Noi siamo un po' una generazione che aveva questa sensazione, almeno io me la sono portata dietro, di arrivare sempre un po' dopo, quindi sempre quando le cose erano quasi finite, sempre, diciamo, essere testimoni di uno strascico di qualcosa che c'è stato prima di te. Quindi anche tutti quei tic o tutte quelle forme anche della militanza che in qualche modo già stavano cambiando, che però provenivano da movimenti, da cose che c'erano state prima di noi. Quindi noi non abbiamo mai conosciuto, per esempio, almeno io e i miei compagni, non abbiamo conosciuto quel tipo di militanza inquadrata, con la formazione quadri all'interno delle sezioni, eccetera, anche perché proveniamo, abbiamo fatto scelte diverse, siamo sempre stati fuori dalle organizzazioni di partito, eccetera, però neanche un tipo di militanza comunque sia che poteva essere simile ai movimenti extraparlamentari di quegli anni, in qualche modo sono sempre stati un po' di riferimento anche all'interno dei nostri discorsi. Quindi comunque noi già stavamo in una fase di transizione. Oggi questa militanza è cambiata ancora, si parla solo di attivismo, e quindi c'è tutta una parte del libro che è dedicata un po' a queste cose qua, anche da un punto di vista del racconto proprio di aneddoti. Ho cercato di fare una roba che fosse anche un po' leggera. Come era nata la spinta? Io ho iniziato a scriverlo anni fa, quando ero molto arrabbiato delle delusioni che avevo avuto, appunto, politicamente, andando via, allontanandomi da alcune esperienze, quindi dopo lo sgombero dell'Alexis, che è stato per tutti quelli che ci vivevano dentro molto doloroso, e soprattutto la cosa peggiore è stata che ci ha fatto dividere, sfaldare. Quindi è da lì che spesso mi veniva detta questa frase di essere troppo rancoroso, di non riuscire ad andare avanti perché c'è questo rancore che mi bloccava, e quindi spesso era un'obiezione che mi veniva fatta quando ponevo delle questioni anche nelle assemblee: ma te sei rancoroso. Io su questa cosa ci ho costruito un po' il libro, cercando di capire perché, cioè che cos'è questo rancore, da dove proviene, che cosa cercavo io in questa realtà e perché c'ho tutta questa delusione. E con la scusa di questo, appunto, ci ho fatto il libro. Però dal momento in cui ho cominciato a scrivere le prime pagine, al momento in cui l'ho chiuso, sono passati anni, ma in realtà in mezzo non c'è stato niente. Quindi l'ho cominciato anni fa, l'ho lasciato lì e l'ho ripreso quest'anno, quando ho pensato che invece bisognava finirla sta roba. E sembrava un momento in cui c'era un po' la necessità di fare questo, quindi di rimettere al centro queste questioni. Poi, con tutti i limiti del fatto, comunque è solo un libricino in un cosmo di altre mille cose. E quindi, diciamo, c'ha l'importanza che trova in qualche modo. Ha una funzione il rancore? Non lo so, nel caso mio ce l'ha avuta, sia negativa sia positiva. Poi non sono esperto di emozioni. Quella cosa lì che mi sentivo mi fa pensare al rancore, ed è una sensazione che mi mette sempre in guardia, cioè mentre per un momento magari mi ha anche bloccato e quindi mi ha impedito di fare un sacco di cose, perché mi sentivo di stare male quando mi ritrovavo di nuovo in quelle condizioni, in quella situazione, in quelle dinamiche. Adesso invece in qualche modo l'ho un po' elaborato, è anche un campanello d'allarme, cioè mi aiuta a capire di non voler stare più in quelle condizioni là, quelle situazioni là, ad evitarle in qualche modo. Quindi secondo me il rancore può essere un ottimo carburante se uno ci ragiona sopra, lo elabora e non si ferma lì, insomma. Alla prossima! Grazie a voi, grazie a te, ciao! L'editore Mattia Tombolini sul suo libro Sacro Rancore, una presentazione a Roma, a Largo Ravizza, domenica 28 settembre 2025 alle ore 18. Con Mariangela Gelati, co-direttrice artistica della 19ª edizione del festival Il Rumore del Lutto, dal titolo L'Invisibile. A Parma e in altre città dal 27 settembre al 9 novembre 2025, ben trovata. Grazie, ben trovati a voi e a tutti i radioascoltatori. Spieghiamo cos'è questo festival. Allora, il Rumore del Lutto Festival è una rassegna di cultura che parte dalla death education, cioè dall'educazione alla morte come parte della vita. Lavoriamo sui significati, sulle trasformazioni e cerchiamo di toccare i molteplici aspetti della vita, perfettamente in linea quindi con lo spirito del festival di quando è nato nel 2007. Come si caratterizza l'edizione di quest'anno a partire da questo titolo? Allora, abbiamo pensato con l'invisibile di riflettere su ciò che rimane al di là del visibile, come i ricordi, l'energia, l'anima o il legame con chi non c'è più o comunque con chi è lontano dai nostri occhi. Quindi abbiamo pensato di esplorare, no, tutti questi aspetti come esperienza, perché spesso l'invisibile resta nascosto, appunto, mentre invece è molto importante perché ha diverse forme dentro di noi e attraverso le connessioni anche con la spiritualità, la natura, con tutti i vari riferimenti, cerchiamo di creare queste reti di connessioni invisibili con tutto, ecco, a livello di emozioni, di emozioni nascoste, di condivisioni collettive, di capacità dell'arte di dare forma anche a ciò che non si può vedere, quindi anche il rapporto con il mistero, l'incertezza, attraverso workshop, laboratori, proiezioni cinematografiche, mostre d'arte, installazioni, concerti, poi abbiamo conferenze, dialoghi e anche delle esperienze immersive. Come si articola il programma? Allora, il programma si articola tra Parma e diverse città italiane. Quest'anno per la prima volta saremo a Los Angeles, quindi usciamo dall'Italia con un evento che esplorerà tutta la cultura e la comunità steineriana di Los Angeles. E anche se il festival mantiene il suo cuore pulsante a Parma, faremo delle incursioni in altre città in collaborazione con istituzioni importanti come per esempio Torino Spiritualità, Socre in Genova, Santa Maria della Vita o il Festival Danza Urbana di Bologna. Quindi attraverso queste città che si uniscono tutte per attrarre il pubblico del festival, cerchiamo di portare questa riflessione sulle trasformazioni, sulla vita e sulla morte in altri luoghi che hanno questo desiderio, ecco, di andare controcorrente, cioè di costruire una nuova cultura della vita che ha in sé anche questi aspetti. Allora, abbiamo diversi eventi, perché partiamo appunto il 27 settembre con il Gala in Nero, con il primo Digital Detox Death Café, che è uno spazio di conversazione che apre poi lo spazio anche alla musica, ma dove saremo invitati a non utilizzare il cellulare per un'ora e mezza, in modo che questa conversazione aperta e libera attraverso una tazza di tè e un dolce o un caffè possa essere prolifica. Poi avremo i concerti di Nero Kane, di Ashko, un bellissimo DJ set con Marco Pipitone Vince Dei. Poi avremo anche quest'anno delle passeggiate artistiche e letterarie e poetiche al cimitero, in particolare il 28 settembre con Beatrice Zerbini e Ginevra Lamberti. Avremo degli eventi online per andare incontro anche a coloro che non ci possono raggiungere nei vari luoghi, e quindi vi invitiamo sempre a guardare il nostro canale YouTube, perché le premiere usciranno di volta in volta. Ci saranno 22 laboratori, tra i quali 20 nelle scuole. Ci saranno autori e personaggi di grande rilievo come Vito Mancuso e Massimo Recalcati. Il 12 ottobre, per esempio, ci sarà Vito Mancuso all'Abbazia di Valserena, che dopo le vicissitudini dell'alluvione riaprirà il pubblico con questa lezione magistralis, che cosa mi è lecito sperare. E poi concluderemo con Massimo Recalcati alla Sala Pizzetti del Paganini sul rendere visibile, rendere sensibile l'invisibile. Poi avremo concerti, convegni con diversi ospiti. I concerti mi preme sottolinearli perché sono sempre una parte molto importante del festival. Per noi la musica è davvero molto importante, perché ha la capacità di parlare dove le parole si fermano, no? La musica è sempre intrecciata ai grandi momenti di passaggio, quindi avremo il 18 ottobre Theo Théard e Blixa Bargeld in concerto al Teatro al Parco, il giorno dopo Mauro Ermanno Giovanardi e la sera Gavin Friday, che è un artista veramente che consiglio tantissimo di vedere, perché è un artista, una figura di rilievo del post-punk e della sperimentazione, l'erede spirituale di quella Dublino che ha trasformato il dolore in arte, e lui ha fatto della vulnerabilità una forza espressiva importante. E lui è stato appunto parte dei Virgin Prunes. Poi avremo sempre con Theo Théard il concerto al buio il 31 ottobre alla Galleria Nazionale di Parma, il complesso della Pilotta, dove appunto ci sarà questa geografia di paesaggio interiore, perché saremo immersi nel buio e coricati per questi 50 minuti ad ascoltare queste musiche, silenzi e suoni dei boschi e delle foreste, e con Theo Théard che suonerà dal vivo. Poi avremo Beatrice Antolini, fantastica artista, anche lei il 26 ottobre a Reggio Emilia, che ha questa energia visionaria e che incarna proprio generi e linguaggi diversi. Sarà appunto al Teatro della Cavallerizza. Poi il 1 novembre il pianista Federico Albanese al Teatro Farnese. E anche questo sarà un evento speciale, perché lui suona il pianoforte, crea dei paesaggi sonori tra presenza e assenza, e portarlo in una cornice come il Teatro Farnese, anche per chi non ha mai visto questo teatro, lo consiglio tantissimo. Poi avremo i vincitori del premio Ciampi, Gianni Maroccolo e Hugo Reis, il 2 novembre a Colonne 28, che è questa ex chiesa meravigliosa dove potremmo ammirarli, e insomma davvero tanti, tantissimi eventi, e siete tutti invitati. I riferimenti web per i dettagli del programma? Allora, potete trovare tutto su www.irrumoredellutto.com, ma anche sulla pagina Facebook Il Rumore del Lutto Festival e anche sui canali Instagram, anche perché diversi eventi hanno la prenotazione, ad esempio il Gala in Nero, anche se ha l'ingresso up to you, però è necessario iscriversi perché è un evento che è quasi sold out, e quindi si trova tutto nel sito o nei nostri canali. 19ª edizione del Il Rumore del Lutto Festival, dal titolo L'Invisibile, a Parma e in altre città dal 27 settembre al 9 novembre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Mariangela Gelati. Alla prossima. Grazie a voi. L'agenda della settimana teatrale con Simone Nebbia di Teatro e Critica. In questa settimana speciale, dove tutte e tutti ci siamo ritrovati in piazza a dire no all'atrocità, andiamo anche a teatro ed andiamo a ritrovarci nei luoghi dell'appartenenza culturale per continuare a far emergere il nostro no e la nostra indignazione, continuare a far emergere il nostro modo di stare insieme e creare società, creare umanità. E dunque andiamo a vedere che cosa ci offre la settimana teatrale romana. E partirei dal Festival Attraversamenti Multipli, il festival multidisciplinare che da 25 anni, con passione, resilienza, insomma, porta la sperimentazione all'interno di luoghi insoliti, e questa volta, come in questi ultimi anni, ecco, tocca al Parco di Tor Fiscale, dove prende corpo l'edizione di quest'anno che ha una parola chiave, la parola coesistenza. Coesistenza che si unisce alla parola chiave di questi ultimi anni, insomma sembra un po' un passaggio di consegne, se coesistenza è la parola di questi anni, fragile era la parola di questi ultimi, di queste ultime due edizioni, e questo è un modo molto, molto preciso, molto profondo di creare comunità attraverso le parole. Andiamo a vedere il programma ancora per questa settimana, fino appunto a domenica andremo a vedere da giovedì in poi performance, site specific, installazioni, teatro, la danza, la musica. Andremo a vedere Roberto Latini e Gianluca Misiti con il progetto Tre Balene, Le Lettere al Lupo della Casa d'Argilla, I'll Be Back, che è la performance site specific di danza di Margine Operativo, così come il lavoro di Carlo Massari, C&C Company, che si chiama Farsi Corpo, e il lavoro di Cornelia, una delle migliori compagnie di danza di questi anni, con The Nature of, sabato 27, alle ore 20 dello stesso giorno, Ateliersi con We Did It, e poi la domenica spazio anche al Teatro per le Nuove Generazioni con Alberi Maestri Kids per Camp Sirago Residenza, con due repliche al mattino e il pomeriggio, e un talk performativo e una proiezione video di Dom con gli occhi aperti in un ruggito, quindi un'idea di appartenenza urbana e artistica profondamente politica, quindi fino al 28 al Parco Ritorno del Fiscale, Attraversamenti Multipli. Questa settimana andremo anche, resteremo anche al Festival Diffuso di Circo Teatro, che si chiama Un'altra Storia, ed è un festival sul tema delle migrazioni, al quartiere Laurentino, al Teatro Furio Camillo. Per quanto riguarda questa settimana è il weekend, che se vedremo qualcosa, sabato 27 in via Silone, lo spettacolo Parata delle Nuvole, e poi seguirà Monsieur Barnabà, mentre invece domenica 28 andremo a vedere nello stesso luogo il Circo in Valigia di Gianluigi Capone, La Dolce Follia della compagnia Teatro nelle Foglie, quindi circo teatro dedicato alle migrazioni per Un'altra Storia. Questa settimana uno spettacolo che andremo a vedere il giorno 26 di settembre, dedicato alla vita di Dora Maar. Lo spettacolo l'ha scritto e lo interpreta Sofia Vigliar, sua l'idea, suo il testo originale. Dora, le dee non sorridono mai, è un viaggio teatrale, insomma, all'interno di una grande artista del Novecento, compagna e musa di Picasso, con tutto, insomma, tutte anche gli effetti di una relazione complessa che però fa emergere il femminile fortemente all'interno della di questa storia, all'interno della figura di Dora Maar. Quindi Teatro Tordinona per 26 settembre, Dora, dedicato a Dora Maar di e con Sofia Vigliar. Poi un Pirandello, Sagra del Signore della Nave, presentato 27-28 settembre al Parco della Cellulosa con la regia di Marcello Amici, quindi ancora un pirandello dopo l'estate per pirandelliana, sempre dedicata da Marcello Amici al grande autore agrigentino. Poi, dunque, per l'Ostia Antica Festival, venerdì 26, Viaggio al termine della notte con Elio Germani e Teo Teardo, tratto dal libro di Louis Ferdinand Céline, come appunto sappiamo, insomma, si conosce, un libro molto molto famoso. Per quanto riguarda il Teatro Basilica, andremo a vedere questo progetto speciale del gruppo della Creta, Aristofane Nostro Contemporaneo, Extramania, dedicato appunto a questa figura del teatro antico, dal 25 settembre all'8 ottobre. È un laboratorio del gruppo della Creta ispirato alle traduzioni e rivisitazioni di Benedetto Marzullo, e gli appuntamenti appunto saranno quelli laboratoriali, poi delle aperture pubbliche in chiusura. Quindi, per quanto riguarda il Teatro Basilico, il gruppo della Creta presenta il suo progetto dedicato ad Aristofane. Ancora in progetto questa volta di Giorgio Barberio Corsetti al Borghetto dei Fornaciari, che si chiama Sogni che non si possono comprare. Il debutto sarà 27 e 28 settembre, un borgo antico nel cuore di Valle Aurelia. Dimora delle fornaci romane per i laterizi e dei suoi fornaciari, si trasforma in un parco scenico, un parco urbano che diventa scenario di poesia e visioni. Grande autore e del regista Giorgio Barberio Corsetti, in scena 27 e 28 settembre al Borghetto dei Fornaciari, con vari attori, quindi invito insomma a cercare informazioni in rete per partecipare a questo progetto che si preannuncia molto molto interessante. Quindi ancora qualche appuntamento, sicuramente uno degli appuntamenti della settimana è andare a vedere cosa succede al Roma Europa Festival, che all'interno del festival ha presentato il suo progetto interno speciale che si chiama Ultra Ref 2025. Roma Europa Festival si fa futuro, festa, condivisione, costante movimento dove i confini dei linguaggi si dissolvono. Si andrà avanti fino al 16 novembre con questo festival nel festival. Gli appuntamenti di Ultra Ref sono condensati all'interno del programma, e questa settimana sarà la musica a farla da padrona, con i vincitori della Rester Cold Soundtrack Europe 2025 a cuore di Caterina Tomeo. Andremo a vedere questo dialogo, le parole delle canzoni, tra Anna Castiglia, il giornalista Valentina Farinaccio, i live di Gaia Banfi e Ginevra Asian Fake, che presenta l'album Femina. Andremo a vedere tante cose. Invito sul sito di romaeuropa.net per il programma di Ultraref e anche per il resto degli appuntamenti di questa settimana, che non sono pochi per quanto riguarda Roma Europa Festival. Dunque, questa sera la danza con Meet Warlop 23-24 di settembre al Teatro Argentina. Inhale, Delirium, Exhale, si tratta di una coreografia che arriva a Roma Europa per la prima volta, ispirata al movimento delle onde, simbolo di cambiamento, imprevedibilità, metafora dell'immaginazione e della trasformazione. Questo per quanto riguarda Roma Europa Festival questa sera e domani al Teatro Argentina. Quindi siamo nella danza. Poi ancora andiamo avanti, appunto detto di Ultra Ref, che sarà, lo vediamo nel programma della settimana con molti appuntamenti, sito romaeuropa.net per vederli tutti. Noi segnaliamo anche che a Villa Medici venerdì 26 andremo a vedere in prima nazionale Soirée d'Etude, alle ore 18 del 26 di settembre a Villa Medici. Si tratta di questa pratica artistica attorno al vocabolario della house dance, ispirata alle opere di Bruno Beltrao e William Forsythe. È una serata coreografica sulle note della musica più amate da Cassiel Goub, che appunto cura la coreografia di questo lavoro. Villa Medici, 26 settembre alle ore 18. Poi, per quanto riguarda ancora il venerdì 26, andremo al Teatro Argentina 26 e 27, venerdì e sabato per un spettacolo teatrale che si pronuncia molto interessante. Hotel Proforma, Blixabargeld, Iki, Flammenwerfer. Questo è il titolo, quest'ultimo è il titolo della produzione di teatro musicale di Hotel Proforma, appunto con la diretta da Kirsten Delholm e Marie Dahl, con la musica e i testi originali di Blixabargeld, eseguiti dal vivo, ispirato alla vita del pittore svedese Carl Fredrik Hill, ed esplora gli anni di isolamento trascorsi a Lund dopo essere stato diagnosticato con schizofrenia paranoide, che realizzò oltre 4.000 opere, alcune delle quali oggi conservate al Malmö Kunstmuseum. L'ensemble vocale Iki si esibirà sul palco insieme alla musica di Blixabargeld, questo al Teatro Argentina, 26-28 settembre, quindi tre giorni di spettacolo al Teatro Argentina. E questo per quanto riguarda Roma Europa Festival di questa settimana, ma insomma ne vedremo tante e belle anche nelle settimane successive. A me non resta che ricordare l'ultimo appuntamento che questa settimana vogliamo segnalare, ovvero sia gli appuntamenti del Teatro Vascello, perché ci sono degli spettacoli molto interessanti, un blocco di quattro spettacoli dedicati a, ad alcuni appuntamenti speciali. Allora, si comincia 23-24 settembre con Microclima, questo lavoro scritto e diretto da Alessia Cristofanilli, un'opera teatrale che nasce da una necessità profonda di raccontare cosa accade quando il peso della storia, dei valori, della responsabilità civile si insinua nella dimensione privata, nella quotidianità, nelle relazioni intime. È ambientata in una casa serra abitata da 138 piante e una famiglia composta da 5 esseri umani. E c'è questa quotidianità sospesa di Edda e Rud, due ex attivisti che vivono un tempo senza nome in un luogo che sembra slegato dalla realtà. Ecco, questo mi sembra uno spettacolo profondamente da seguire, perché insomma, rispetto ai tanti pensieri politici di questi giorni, di questi mesi, se non anni, questo è uno spettacolo da non perdere. E al Teatro Vascello sarà 23-24 settembre. Sempre al Teatro Vascello arriverà per il weekend A Place of Safety, 26-27-28 di settembre. Questo lavoro della compagnia Kepler 452, con la regia e la drammaturgia di Enrico Baraldi e Nicola Borghesi, che porteranno questo spettacolo in italiano, inglese, spagnolo e portoghese con i sovratitoli all'interno di questo teatro, del Teatro Vascello. È un viaggio nel Mediterraneo centrale, realizzato in collaborazione con Sea-Watch e con Emergency. Racconta uno dei fenomeni più drammatici degli ultimi anni, la tratta migratoria nelle acque del Mediterraneo centrale, attraverso le voci degli stessi operatori umanitari. Spettacolo imperdibile, di grande, grande interesse e importanza. Dunque, si tratta di un viaggio nel Mediterraneo. In questo momento nel Mediterraneo stanno viaggiando le navi della Global Smooth Flotilla, che stanno arrivando a Gaza, e il vento del Mediterraneo sta spingendo dall'inizio di questa settimana le navi verso i territori palestinesi. E noi ci sentiamo di soffiare nella stessa direzione, accompagnando tutte e tutti la Global Smooth Flotilla e andando questa settimana a teatro con un pensiero nel Mediterraneo. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.